Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli che è tornato finalmente fra noi. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. E la replica, mi raccomando, la replica che è lunedì dopo il notiziario notturno, ammesso che qualcuno si ricordi di mandarla, che non succede sempre.